L'ho detto a più di uno che ho spiegato anche a Claudio, ma non lo capisce, non so perché sia venuto qua che non c'entra niente con Meneghello, no. Cosa c'entri tu ti Claudio questa roba? Ma non so. Ti con Meneghello c'entri tu qualcosa, Io Claudio? con Meneghello c'entro, C'entro. perché come il professore l'ha conosciuto, l'ho conosciuto anch'io. Ho qua la mia 24 ore, qua piena dei libri di Gigi. Tanto così perché, tanto per presentarmi, ne prendo uno a caso, Pomo Pero, il giorno di stasera, nella pagina a Claudio, pensando alla vipera del Monte di Calvene. Visto che ci abbiamo dentro tutto, a ricordo di una bella serata a Lugo, molto cordialmente Gigi, siamo nell'87. Quasi tutti i ga questa dedica a ricordo di una bella serata, perché con Gigi abbiamo passato proprio belle serate insieme. In un altro, per esempio, ci abbiamo Maredè e scrive, no, dato che lui si è anche a Milora. Per Claudio, virgolette, collaboratore, a ricordo di un incontro a Lugo il 28 dicembre del 90, molto cordialmente, bella serata. Perché se che gli ha scritto collaboratore qua in Maredè? Perché se voi altri c'è per Maredè in fondo, che c'è un elenco lunghissimo. C'è per esempio Claudio, mettiamo così dal caso. Allora andiamo a vedere nell'elenco sto Claudio, no? Ecco qua, Claudio e le atrocità in dialetto, pagina 145. Andiamo a vedere pagina 145 e c'è scritto: che facivimo cose atroci alle bestie, buttando le vipere vive sul fuoco, le metteva fuori i pie. Così mi dice Claudio in oltrastico, oltrastego di Lugo. Atroci non è certo vicentino originario, ma pare qui l'espressione più giusta. Si può considerare un calco o forse meglio un inserto. È come se le cose atroci, sarebbe in italiano vicentino per atroci, si facessero tipicamente in dialetto, ma si dovessero poi esprimere in lingua, mi contandoglielo, per farmi vedere bello che guido atroci, che facciamo robe atroci a ste vipere, no? Per farmi vedere, e lui lo afferrà subito. Ma mettiamo che invece di Claudio a volessi vedere vipera, che abbiamo parlato, allora vai in fondo e vede vipera, no? E se fassi, tutte robe, zio, vipera, ecco qua, porco qua, È sangue vipera l'alfabeto. o lipera. Natura occulta e micidiale del loro veleno, pagina 147. Se dopo vuoi guardare oltrastico, che se dove che sto? Oltrastico, allora anche là, vedi Claudio? Cioè, di più di così mi non so, insomma. E diceva, mi ha parlato di bambini, eccetera, c'erano belle queste storie, perché è scritto là, che ha fatto din don don, ma che c'è anche din don dan, din don din, dipende dal paese. In quel caso c'era din don don, le campane de Mason le suonava tanto forte, le batteva sulle porte, ma le porte se de ferro, volta la carta che c'è un capello pien de piova. Volta la carta che sei una rosa che sa de bon, volta la carta che sei un limone bon da mangiare, volta la carta che sei il mare la marina, volta la carta che sei una gallina che fa cocodè, volta la carta che sei un re e due sergenti, volta la carta che sei due denti è un massellaro, volta la carta che sei un peraro. Un peraro che fa bei piri, volta la carta che sei due sbiri. Due sbiri che ciappa tutti, volta la carta che sei due puti. due putti che giuga la balla, volta la carta che è una cavalla. Una cavalla che trave culo, volta la carta che è un mulo. Un mulo che trave cao, volta la carta che è un pao. Un pao col becco rosso, volta la carta che è un pozzo. Un pozzo pieno di acqua, volta la carta che è una gatta. Una gatta che fa i gattei, volta la carta che è due puttei. Due puttei che fa ostaria, volta la carta che è finita. Son da cantare a me canzon alla Marietta e a Beatra traditrice ieri andà all'opera e mico a me canzon me sentivo proprio mona e mico a me canzon un mona sostante co che go portà e a marmellata alla Marietta e a Beatra traditrice e a gave vasa magna e mi col me vasetto parevo proprio mona e mi col me vasetto mona sostante. Che correga una bicicletta alla Marietta e a Beatra di triglie una gran moto che accroppa e mi col metriciclo parevo proprio mona e mi col metriciclo mona sosta. Che son da al rendezvous con la Marietta e a Bea e a diseva te voglio bea un lillo e mi col me buche me parevo proprio mona col me buche de fiori mona sosta. Quando ho deciso de copare la Marietta e a Bea traditrice era morta sa da un fiat e mico a me pistò e a me sentivo proprio mona e mico a me pistò e a mona sostato. Così soccorso in cesa il funerale della Marietta ma bea traditrice iera sa resuscita e mico a me corona parevo proprio mona e mico a me corona mona sostato. Dietro le quinte del teatrino dell'asilo, in attesa del turno per entrare in scena, la Zaira mi mostrò la broda. Tirò su la cottoletta fin sul ginocchio, poi su ancora e poi Madonna ancora, e vidi la broda. Era grande come una palanca e aveva anche il colore ramato della palanca. In paese si diceva brosa, ma la Zaira era della campagna e mi fece toccare la broda col dito e sentii che era ruvidetta e un po' tiepida. Era una broda interessante, ma mostrata così a tradimento e così in su. Beh, insomma, ero troppo turbato per apprezzarla come meritava. All'asilo si facevano cantare canzoni piene di sentimento. Altre ci arrivavano dal mondo esterno. Ramona con la paianca se va in mona. Mi pareva una bella canzone, un po' triste, con quel richiamo alla rovina economica che capita fatalmente a chi non possiede altro che 10 centesimi. Una cosa ovvia in fondo, ma molto ben detta. Pensavo che sarebbe piaciuta alla mamma, ma invece non le piacque affatto. La mamma stessa e la Jovanka Slava cantavano alle volte un ritornello di cui apprezzavo molto sia l'aria che le parole. Diceva «Creola dalla bruna reola» e seguivano altre belle parole, ma quelle prime bastavano. Le creole hanno un nastro lì là attorno alla fronte e la pelle scura. Sono vestite di velo e sotto si intravede l'areola bruna bruna. L'odore di creolina si sente appena. Creola dalla bruna areola, per pietà sorridimi che l'amor massa, straziami, ma di baci, saziami, mi tormenta l'anima, uno strano mal. Che bei fior carnosi son le donne dell'Avana, hanno il sangue torrido come l'Ecuador. Fiori voluttuosi come coca boliviana, chi di loro si inebria va cantando ognor. Creola dalla bruna areola, per pietà sorridimi che l'amor m'assa. Straziami ma di baci, saziami, mi tormenta l'anima, uno strano mal. Sorridimi che l'amor m'assa. Straziami ma di baci, saziami, mi tormenta l'anima, uno strano mal. Visto che si parlava di dialetto, insomma, ci pare il caso di fare uno dei nostri brani, una canzone che abbiamo scritto nel dialetto che si parla nelle campagne tra Padova e Vicenza, dalle quali noi proveniamo. Ma insomma, come dire, una piccola avvertenza: il dialetto che sentirete non è un dialetto autentico, un dialetto vero e proprio. La canzone si intitola A fuochi spenti e già sin dal titolo si capisce che non ci siamo, perché in dialetto a fuochi spenti si dice a fuochi smorsai, cioè, qualcuno dice smorsai, qualcuno dice stuai, non andremo mai d'accordo, insomma, ecco. E, beh, che dire, abbiamo fatto la scelta di utilizzare questo linguaggio un po' dialetto, un po' italiano, perché in fin dei conti è la lingua che si parla nelle nostre famiglie al giorno d'oggi, insomma, questo strano ibrido. E del resto, non solo questo, qualcuno avrà da dire che non è un dialetto autentico, perché nella canzone che suoneremo e che canteremo non c'è neanche una bestemmia, come sentirete. Quindi, insomma, non abbiatene a male, ecco. Vi suoniamo la nostra ninna nanna veneta che si chiama A fuochi spenti. Mostrami i tuoi mestieri, fammi vedere dove chise. Tira fuori tu salvanei, che vorria essere aria anche a me. P'accompagnarmi col temporale, baruffare quei campane, a fin di aprire essere vento e basare i fiori de sotto e sottane. Vorrei essere la malombra quando chi torna dall'osteria, nebbia de notte traverso campi e il canto del fiume in mezzo a via. Me sconderia nei ragnatè, po come un gatto te seguiria, perché mi piace star terente, va far diffusa e può scampare via. Ma quando suona mezzanotte, mentre te dormi te spieria, che so curioso dei tuoi segreti, che so invidioso della tua magia. Come amarea ti te senti e lune coi caende te cambia il sangue, come amarea ti te viete ve e mi son reito in bocca e alghe. Thank you. anche se mi go un vecchio compare che go incontrare il crocevia che me gadai a mansanca e ho go sempre intorno non va più via di non te gheda aver paura perché era ise più che se storte più va profonda drento a terra e più è ga scorsa dura ma quando suona mezzanotte mentre te dormi te spieria che so curioso di tuoi segreti che so invidioso della tua magia e se a luna se un fil de ferro i pai del steccato pare denti col metabaro casa par casa andrò a rimpisare i fuochi spenti. Mentre dormi, vespieria, che so curioso dei vostri segreti, che so invidioso della vostra magia, e se a luna se un fil de ferro i pai del steccato pare denti, col metabaro casa par casa andrò a rimpisare i fuochi spenti. Panderechina non fa note, gese tre strighe che fia lana, non fa note la musia, sto a candea che femonana, a notte zionga come una conta, gese tre strighe che fia lana, Mario Moiere pare fior, sto a candea che femonana. Prima di chiedere a Emilio di raccontarci ancora qualcosa, volevo capire se il dottor Capozzo, se lei è venuto qui per la sua anche specializzazione, no, se questa sua specializzazione, che come è noto riguarda la deontologia, se c'entra qualcosa con il Meneghello. Il dottore. Qua che c'è un libretto, vedete, Luigi Meneghello, la materia di Redding e dintorni. Non come quello che lo presentava, è il famoso che lo presentava e continuava a dire la materia di Reading. Atteguito che c'è Redding, che c'è la radice red, rosso, mentre Reading vuol dire ridere, no? Se più o meno. Ben, va bene. Allora, quando che ha fatto questo libretto qua, mi ho visto questa coccinella. Allora, ho domandato. Cucinella, il nome ungherese, Katia, cucinella in ungherese si dice Kati Kabogar, e vuol dire cucinella. Allora lui è il simbolo della moglie, perché gli voleva tanto bene alla Katia. E allora mi ha detto, vedi, tu l'ho messa qua, dopo l'ho messa anche qua, dopo l'ho messa anche qua, e in quattro posti, insomma, ha messo sta cucinella. Allora, mica prima di fare il dottore, ha guito, mi ho intestardito e ho fatto una cucinella. So buon farla. Ho messo lì, ho fatta. De oro? No. E dopo che ho dato a Gigi, ho guito, to, regali la Katia. Beh, regali a te, ho detto. Allora, gli ho regalato. E infatti, qua mi scrive. Insomma, buonamente, oggi Katia... ha indossato per la prima volta la bellissima coccinella, te ne siamo e basta. Un giorno, mentre però in dialetto non si dice mia coccinella. No, Cioè, dici, no, un'altra parola. No, no, ma lì li abbiamo chiamato così perché mi parlando con un professore cerco di essere, no, parlare in dialetto. Sì, no, no, no, no, di dire brombura. Come atroci, no, sì. Te dici atroci, te dici mia, e così anche qua te vuoi fare bella figura. Noi che veniamo dalla campagna, siamo vestiti bene, non siamo mia come gli altri professori che dice Vito, se li ha trasandati, braga di fustagno, golfi. Noi contadini, scarpe lucide, piega e così, se presentiamo così e cerchiamo di parlare anche in italiano come che sto parlando in questo momento. E era un giorno che tenevo un simposio sulle varie, perché qua ho i libri di Meneghello, ma ben, questa è la vessiga di Aroia di mia suocera, ma porta. Sì, mia suocera, la ga alleva una roglia. Vedete che noi quando parliamo alla gente usiamo termini, per esempio quella volta lì che mio nonno il Magavea mandà con la scrofa al verro perché era in calore e mi tosetto e l'avevo portà eccetera e non so mia dove che se quello che ga il verro e mio nonno che conosceva i calori della Nina, che si chiamava Nina questa scrofa, che li conosceva meglio fa qui di a nonna, perché e viveva con questi, che era la nostra, e mi ha detto, non importa che non ti capi, va che drio che a te mena e la, infatti, la mega mena, quando che so tornà, per dire che siamo persone, anche scrivendo, usiamo l'italiano, e gli ha scritto su per il calendario a fianco del giorno roglia al vetro. Sì, italiano. Un giorno mentre sì, questa già se la vessica rassecca che ho finito il colà perché qua che era rento il colà che abbiamo fatto i grustoli adesso a carnevale e l'avevo finito e dice che i meglio grustoli sono fatti qui col colà che sia perché, non so, è vero sì o no, signore? È vero. Un giorno, mentre tenevo un simposio con le mie 24 ore, con tutte le cose, mi vedo Gigi Meneghello lì davanti, così, incantato, che cosa che voleva sapere. Ha detto che ho problemi. No, ha detto, la signora ha problemi. Un'altra signora ha detto, sì, vuole oleghe. Ah, le oleghe, guido, beh, facile. Le oleghe, sapevi cosa che... Se, vabbè. E guido, se ciappa la fede d'oro, però staga attenta quando che se cura, perché se la seccava la fede d'oro, il marito casca. Sapevi, no? Bisogna sentarlo giù. O essere lì perché, beh, lo sai, viste robe qua, con le mie capelle. E se cava la fede d'oro, l'oro è magico, un metallo nobile, e se fa o tre, o cinque, o sette giri intorno alla olega. Oppure se la olega non è proprio grande, sì, se ciappa con la fede d'oro, e se schissa e se sara via quel coso, e la olega la parte. E allora quando ho finito a spiegare a sta signora, lui ha detto, e la guarisce la signora come prova. Madonna, Guito, ma scarsito, prova a guardare se la ha ancora. E la aveva ancora, beh, che vuole un po' di tempo, Guito. Se vediamo domani così. Perché, sì, sì. Siamo sicuri che sa cosa che sente Olega coincidente. Sì, sì, lo sa Olega. E adesso ho sentito parlare lì con Gigi, che go, per esempio, ti senti? Parla mai dei pioci, perché go spiega a me come che scappa i pioci a Gigi, perché le umeghe, la gente studiata, gente anche malo, leggero, un centro grosso, non è proprio della campagna come me, che se, per esempio i pioci, mi ho un sistema, che se qualcuno qua, qualche signora che ha i pioci, e la signora ha la pioci, signora ha la pioci, diga di sì per piacere, se no non devo... abbiamo trovato la signora che si carga le piocci. Signora, le sei fortunata perché so qua me. Come si fa con i piocci? Allora, se ciappa, spero aver portato io l'attrezzatura. Se ciappa, scusatemi questo sistema qua. Si prende, vedi che, ben, sa vi che i piocci ha tendenza ad andare in testa, infatti la signora si carga in testa. Se suo marito gli ha nelle parti basse, ma anche pannallaise andà in su, ha tendenza ad andare in alto. Allora, i piocci sa vi che si chiama peduculus hominis. Noi si mia i piocci peduculis puldinis. E chi sei i piocci puldini? Peduculus hominis, i piocci proprio degli uomini umani. Che quella volta che il Signore che ha creato tutti gli animali e che è ancora da creare l'uomo, i piocci sono a protestare, e ha detto al Padre Eterno, ma un'altra cosa è che mangiamo? E morì da fame, allora il Padre Eterno ha creato l'uomo perché i piocci possano andare sulla testa e gli abbia da mangiare. L'uomo si sta creando per dargli da mangiare ai piocci. Va bene, allora la signora che ha il problema... Avevo costruito questo cosa. Qua che c'è una scaletta, ho detto che il pioccio ha tendenza ad andare in alto. Lui se vede una rampetta, una scaletta, qualcosa, e salta su, salta. E lui se mette questa qua, lui salta. Cosa succede? Che quando la staga attenta si haga il problema. La staga a ridere. Che dopo mi chiama di notte e si haga... Quando che arriva in cima qua, cosa c'è che fermo un altro? C'abbiamo un poco di pepe fresco. Pepe, il meglio sarebbe pepe di Cayenne, ma insomma, qui ho cagato in casa, e se masena qua in cima, e se fa così, cosa succede? E dopo, col sapone di Marsiglia, non saponette profumate, che vuole un sapone neutro, non sta a ridere per piacere. Se fa così qua, si spalma ben col canton del sapone Marsiglia. Cosa succede? Che il pioccio, che lei salta, che ha sempre questa tendenza a saltare su, corriva in cima, dopo tutti questi salti, anche se lei ha un pioccio, che ha il fiatone. Avendo il fiatone, cosa succede? E tira su il pepe. Tirando su il pepe col fiatone, estrauna. Straunando, e perde un po' di orientamento, e scivola quando che abbiamo messo il saon. E va a battere la testa su questa lastrina di marmo e resta secco. E la signora? E la? Alla sera prima di andare in letto, le mette per terra lì. Alla mattina, i alti così per terra e spassa fuori qua, spassa ora. E in più, questa funziona anche se manca la corrente. Chissà, son nate quelle labbra onde del mar, la sera più scure d'un moro. Forse va, ribelle onda del mar, a un rendezvous con Hemingway, un'ombra alla risbar. Buonasera, decoro. Io vorrei fermarti e ti direi che c'hai la faccia infelice d'un salice e dell'onda l'andatura discontinua. Rifletti sui marmi, la sera a Venezia sedani e sporte, nebbie e vetri rotti. Ai turisti piedi di latta. Ah, onda del mar. Chissà in quale sud, col seno teso ti infrangi, oppure ritorni e sfibri un tuo barba blu. Ok, bene. Thank you. dietro i marmi, il tuo pensiero scompare fra le tue ciglia e i tuoi pizzi lucenti. Schiuma del mare. Vedrà passare sotto il portico al ghetto, posar la borsetta sul banco e ordinare un caffè, e ad un tratto si sentirà vecchio da volerlo promettere adesso: non berrò mai più vino e poi ti sposerò. Mi pare di sentire i fiori che canta Onda del Mar. Onda del Mar. Sono arrivati Baltasar. Onda del Mar. Sono arrivati a Venezia con la fisarmonica in spalla, no? Onda del Mar. Vengono una volta all'anno, si vogliono divertire, no? Onda del Mar. Ora qua i fiori. Onda del Mar. Allora, prima cosa, se siete campagne, Onda è inutile che fate finta di essere veneziani perché si capisce subito. Onda del Mar. Che poi vieni qua, no? Dopo si perde, Onda no? Del Mar. E ti viene domandare che andare a torre il treno in stazione. Onda del Mar. E se è scritto dappertutto, basta che ti lesi, Onda no? Del Mar. Tipo se vede subito che ti sei da Roncaglia, ti sei... Perché i posti là, no? E parte a mattina de Bonora, arriva a Venezia, e va in giro. Onda del dopo Mar. Canta Onda del Mar, no? Perché mangia il tramezzino al baccaro. Con la maionese e l'insalata russa. Che là da 6 mesi ha variato all'effetto allucinogeno, Onda guarda. Del Mar. E dopo canta tutta giornata finché viene sera, Onda del Mar. Lo dico per esperienza perché Onda del Mar. Quando partono con Onda del Mar vanno avanti per 2 o 3 ore di fila, Onda non, del Mar. Non c'è niente da fare. Onda del Mar. Io a questo punto vado a prendere un caffè, ragazzi, ci vediamo dopo. Onda del Mar. Ditegli qualcosa che vuoi perché non se ne può più. Onda del Mar. Onda del Mar, ma divertì. Onda del Mar. Onda del Mar. Che spiro, Onda del Mar. Ferma tutto, ferma. Ferma la gondola, guarda, guarda là. Questa è a fia americana, sì, sei turista. Sei di Ohio. Se ti sei di una bruschetta, lo sei. Avien da Ohio. Ah, avien da Ohio. E ora tico te vedi a turista, fiore. Sei un fiore, no? Ti vedi, sei... Ti apponti, ti avardi e a te guarda e a te dice veramente sono di Villa Verla. Mi dispiace signorina, ma senza carta Venezia non può più andare in vaporetto. Dopo l'ultima frase dove viene scritto le donne eccetera, dice anche il consiglio che se le dà alle donne e se gli uomini tagliarglielo. Lo dice Gigi, insomma. Dicevi? No, sulla questione femminile, se perché capire tue. Quando penso alle donne mi viene sempre in mente la comare. Tu ti sai chi che sei la comare? No, non è mia, quella che gatte gnu a cresima o batteso è il toso, che sei comare anche quella, ma la vera comare proprio per antonomasia la sei la. Levatrice, sì, la levatrice è la signora. Beh, a me complimento perché, guarda, a parlo alle volte e pare che sia straniero. La comare, sì, la levatrice. Che se nel mio, ho il pronto soccorso qua, perché ho famoso l'onto di comare. Savi che mi ho fatto la specializzazione in deontologia medica. Savi, al manco cosa che è la deontologia medica. La è quella branca della medicina che cura le malattie, come che dice la parola stessa, con l'onto deontologia. Allora con l'onto di Acomare, che adesso vi faccio vedere, con l'onto di Aganasa, di Aroia, di Suocera, con l'onto di Tasso, con l'onto di Alana Susia, con l'onto del Seciaro, che quello è miracoloso, e tutti qua mi sono specializzato proprio in ontologia medica. Allora, il onto della Comare, eccolo qua, vedi l'etichetta onto della Comare. Cosa è l'onto della Comare? È un unguento che si ricava dal Tasso Barbasso, è una pianta che viene su in montagna, la fa le foglie larghe, lo stelo grande, i fioriti gialli, tra l'altro che chi studia si chiama Verbascum Tapsus. Che robe so, insomma, non è che sia uno che si improvvisa, no? Allora, con le foglie si fa i stupini per i lumini, se gli illumini casa, che se c'è senza stupini, ha le sue foglie, e questi serve anche per fare i stupini. Quei fioriti gialli là, che viene insieme a sto telo, e ti reso, è quella pianta che ha le foglie come lanuginose, sai, prima strada, vedi, insomma, beh, vabbè, non importa, casomai venite da me che vedo me, insomma. Allora, se prende questi fioriti gialli e si fa andare in teccia con il burro, si fa un desfritto, dopo si passa, si cola, si filtra su una pessetta. Ma tu non stai a ridere. Perché dopo, quando ti si lega, ti ricordi più, se non ti stai attenta. Però ti stai attenta, si filtra e si mette su questa bossetta, che adesso mi lago un po' di lui. Cosa serve l'onto della Comare? E c'era questo onto che la Comare l'aveva sempre nella borsetta quando che andava in giro a fare partorire i bambini. E con questo onto agevolava il parto, perché si dice che la ondea... Beh, a Gerolin una sera che facevo così, una signora gli ha detto strindi, strindi, sì, è vero, scusè, ma siccome non ho mia pratica, perché... Comunque, con questo onto di Acomare si onde la parte e si agevola il parto. Chi che ha partorio sa che come complicanza del parto, di solito, alle signore che viene le maruele. Altra specializzazione che abbiamo la fortuna di avere qua il dottore. E quindi, io che aveva visto che con questo onto di Acomare c'era un sollievo anche con quest'altro complicanza che c'era del parto. E allora c'era esattamente uno degli elementi per guarire dalle maruele. In più dopo, io ho visto che è miracoloso anche per i postemi. Postemi? Conosci i postemi? Do you know postemi? Allora... Però se uno ha la malaugurata disgrazia di avere sia i postemi e sia le maruele, prima spenella il postema e dopo le maruele, o se no che cambia il pennello. Noi siamo... Siamo alle 11 quasi suonate, quindi probabilmente stiamo andando verso la conclusione, crediamo. Quindi chiediamo un piccolo brano ai Bottegari. Giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. un cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, a un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon, un papillon di seta blu. Si avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene né dove va, di chi sarà quel vecchio frac. Bonui, bonui, bonui, bonui, buonanotte. Va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. Ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città, la luna s'è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà, spariglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va un cilindro, un fiore, un frac. Un cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, il bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon, un papillon di seta blu. Galleggiando dolcemente, lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va. Chi sarà? Di chi sarà quel vecchio frac? Addio, addio, addio, addio, addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un abito da sposa, primo ed ultimo suo amor. Prendete Pomo Pero, qua se elenca tutte le malattie che mi tratto, che se le ho anche se vera studiare, non mi domandava mia cosa, che se le ho leghe, i cioatti, cioatti dritti, chi se qui facili da curare e qui roversi, chi se più difficili, far venire a cao un cioatto, cosa far venire a cao, cioè qua che se tutte, per esempio la ganassa di Arroia di Assuocera che ha l'onto che è qua dentro, è miracoloso. Questo qua, siete? Ah. Dentro noi altri dottori diciamo che è un seno, no? Perché è un midollo. E quando che uno ha una maccaura, una infiudine, do you know infiudine? Infiudine? Una infiudine, una intorta, una storta, e ciappa questo in granaro, questo qua si mette in granaro quando che si coppa il mastio, questo qua non si cucina mia qui gli ossi del mastio, si spolpa sommariamente e si mette solo al trave in granaro, quando che se ora che uno e ha questi disturbi, il vassullo tira giù e anche dopo anni è sempre valido. Vedi io che non si è mai scritto la scadenza. Allora se va in casa sora la fornella, te garei a fornella a casa, e te scaldi perché in inverno, come adesso, è un po' asciutto, allora, e dopo con una menara che te ghi lì in casa, te spacchi qua e viene fuori sto midollo per praticità allogo qua, e quindi questo se da su, che è tutta una procedura, bisogna che venga a me perché bisogna dall'interno verso l'esterno, parar via il male, eccetera, tutta una cosa, una procedura. Ma questo se niente, ecco qua, onto de ganassa de mascio, vedi, tutte le etichette. Ma quello che vorrei un po' sì, portare a vostra conoscenza come aiuto e come contributo di tutte le malattie che ha trattato Gigi, vorrei ritornare un po' sulla quella che è la specializzazione mia, che è appunto le maruele. Sapete che i nostri antenati ha disturbato perfino la filosofia antica. Mi ho fatto gli approfondimenti, ho trovato che Empedocle di Agrigento, conosci Empedocle? Quinto secolo, siamo nel quinto secolo a.C., lui era un mago, un filosofo, ma anche era anche così mago, un esteta, era anche un mistico, eccetera, e sempre voglia di conoscere, e era quello che aveva superato il dualismo, e era arrivato, sapeva il dualismo bene e male, bianco e nero, e era arrivato al pluralismo, a dire la verità, prima del dualismo che era stato, e il monismo che pare tanto tornare di moda adesso guardando la televisione e i politici, no? Quello è il monismo. Superà il monismo, Isera passa attraverso il dualismo del bene e il male e Isera va al pluralismo dei quattro elementi della fisica, della filosofia, siamo i presocratici, no? Capì? E che se i quattro elementi terra, aria, acqua e fuoco. Mi chiederete, e come si fa, come hai fatto i nostri antenati curarsi le maruele con questi quattro elementi? Subito detto, prendiamo per esempio la terra, grazie. Se ti desideri aria, c'era un po' coso. O anche l'aria, eh. Allora, se prende la berza, invernale, quella invernale, perché la berza invernale? Perché dopo che ha brosemà, la berza concentra tutti gli umori della terra, perché la terra, se in altri sapessimo sfruttarla, la ha tutti i benefici di questo mondo. E quindi questa berza invernale, che dopo che ha brosemà, che la si restringe un poco, quasi così. Noi altri dottori che chiamiamo è quello, è il momento balsamico, perché la concentra. Allora si prende questa verza, mi per comodità ho sempre drio nel pronto soccorso, ho sempre 3-4, ma le cose a preparare per comodità. Comunque, se prende questa verza, se batte sulla terra e se le foglie si tira via con le mani, non col coltello. E queste foglie si può fare la verza in teccia, se è commestibile, si può fare la verza soffegà, la verza è... E Luanega, risi e verze, e non come che la signora da Vicenza, qua Pelliccia che è davanti, ha detto, signora Ila d'Andosea da Vicenza, e come la farisse a verza? Lessa. Ben, a credere che a Vicenza mangiassi meglio di una verza lessa. Mettighe una brasoletta, mettighe una Luanega, mettighe qualcosa. Comunque non importa, per dire che queste foglie le si mangia, le si commestibili. Quando che voi altri alla verza che vi tira via le foglie, avete trovato con un così. Vedi che qua che c'è delle asperità, no? Cosa succede? Perché la madre natura ha godito che la madre natura, se avessimo sfruttarla, l'ha fatto tutto? Perché quando che voi altri impiantate la verza in luglio, la verza se calda la va un po' giù così. E perché la verza bisogna impiantarla in luglio, non in agosto, perché chi che impianta le verze in agosto non mangia né le foglie neanche il torso, è il proverbio. Ma in luglio se caldo le vaso, l'ora dopo le ravviene e le viene su e viene fuori così. Quasi tutte le verze invernali le se fatte così a esse, si tira via le foglie come che guido e arriva e resta così. Mi qua ho fatto un poco di invito, no? Perché... Allora, si prende e non si può fare arrangiarsi, bisogna sempre che venga a me. Allora, vi spiego che, tanto perché adesso tutti vuole sapere, quando gli va sotto anche quella medicina ufficiale, tutti vuole sapere, e il dottore prima di toccarli bisogna che gli spiega per filo e per segno. A me fa uguale, vi spiego. Allora, il paziente, vedi che si chiama paziente, perché bisogna che il porta pazienza. Allora, il paziente si mette un po', piega così, e mi, che so, applico su, questo qua si chiama, un altro dottore che diciamo, uso topico, che vuol dire uso sul posto, va sul posto. Allora, con movimento destrorso, si applica sulla parte, vedi che la madre natura che ha fatto come una trivela, no? Si applica fino a che il paziente dice... La signora che ha detto, fino a che il paziente dice, oi, perché lei la ha provata eventualmente. Quando che il paziente dice, oi, o basta, vuoi tirare. Ma con movimento sinistroso, se torna in dria. Cosa succede? Che queste asperità dell'umore della verza invernale le mollifica e le infiapisce le maruele e si ha un grande sollievo. Fa parte anche questo della linea di terapia che va sotto il nome di crioterapia, perché la fa criare. Allora, Savi, mentre facevo un simposio, una signora mi dice, scusa dottore, e dopo l'uso, se puoi adoperarlo ancora in cucina? Ho detto, di solito no, ho detto, se te vuoi adoperarlo, lavilo però, insomma. Vabbè, Savi che sora ogni dolore, che sei un santo protettore, sora mal de gola di San Biagio, sora il dente, che sei Santa Apollonia, sora Maliocci, che sei Santa Lucia, sora questa specifica terapia, che sei Sant'Orso. Non abbiamo, prima di dirvi arrivederci il prossimo anno, non abbiamo, credo, mai concluso senza sentire la volpe. Sapete che io sono il più grande poeta vivente di Oltrastico, tre case, comunque, e ho deciso di non fare più poesie fino a che non imparai questa. Perché ogni poeta è famoso per una poesia. Ricordi, dimmi una poesia a Leopardi, a Silvia, dimmi l'altra, una poesia. E così mi, che so Claudio Capozzo, tanto perché un domani se sono le antologie, che... perché poesie che ho fatto anche quella ermetica, ho messo 20 anni a farla, perché tutti i buoni farle lunghe, ma farle curte, mia fase, che a volte lì ha detto, adesso voglio fare l'ermetica, e ora avrà 20 anni e stringi, e il titolo è questo, chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo? E dopo ho fatto la poesia, e la poesia è, boh. Qual è il vantaggio di questa poesia? Intanto che è facile impararla a memoria. E un domani, quando che mi sarà morto, che nelle scuole gli dirà, tu là in fondo gobo, oh, sempre distratto, dimmi la poesia del famoso poeta Claudio Capozzo che si intitola Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. Quello in fondo gli dice, boh, oh, meno male, ti trovo preparato. Questo già era il periodo dell'ermetismo del grande poeta. Però dopo ho fatto anche, sta il periodo dei sonetti. Savi tu di cosa che sei un sonetto. So che quella volta lì c'è padre l'ispirazione, avevo detto, petta che faccia un sonetto. E ho fatto questo sonetto che si intitola La Volpe. È un fatto autobiografico, veramente accaduto. Le do qualche delucidazione, Savi cosa che sei, i derli, se leggerla, le pecche, se le orme. Perché questo dialetto che se pensavo che mi quando ho trovato mia moglie che l'abita la valletta della mia, no? E cioè non si capivimo, siamo avanti sia mesi a palpuni, perché non girimo buoni a capirsi, perché al cucchiaio era che chiamava Gucciaro, Mentre per noi altri il gucciaro se do che ti impianti le gucce. Cioè, sempre non siamo buoni capaci. Ma lasciamo perdere, insomma, diciamo la volpe. Pare o fora. Anche a te adesso, perché io resistivo fin adesso. Fiocca de fora e nevega a Derli, se bianche le siese ai confini del campo, i cacchi da venta spumigli e paimerli e corri tusiti a fare il suo stampo. Le sama dal cielo steave de argento, ghinè che se ferma, na rama se orna, come ricordi che un ogarento, ghinè che se desfa e ghinè che ritorna. Pecche de volpe fin rente al punaro, menono che speta, notte de luna, la sciopa la varda verso il valdaro, le ombre se muove e il vento le cuna. La spunta sta fermo, la pare decisa, le proprio un volpon, le grande fa un can. Punta menono qua mira precisa, e il colpo che parte se smorsa lontan. Se sveglia la notte, la pare una guerra. Corremo la volpe distesa per terra. E non la varda, e il bestiema pin pian, ah, toso cramento a goco pa' il can. One, two.